How did you get on? Se ha avuto problemi con tutte le espressioni e le parole nuove, ascolti di nuovo questa unità e faccia di nuovo i test. Do the tests again. Rifaccia i test. Ma se non ha avuto problemi, continui con la storia di Sara in Italia. La nostra storia comincia con l'arrivo di Sara all'aeroporto di Firenze.